Il bilico canta in un arbol della flor, del bacio se aspettan, lo stesso prende l'amor, del bacio se Thank you.